Con Edoardo De Angelis, regista del film Il vizio della speranza, in uscita in sala il prossimo 22 novembre. Edoardo, ben trovato. Bentrovati a voi, ragazzi. Siamo tutti sull'onda, gruppa. Senti, come lo presenteresti il tuo film? Ah, questa è una suggestione stimolante. Questa è la mia favola di Natale. Il mio Natale a Castelvolturno. Perché è una favola nera perché si soffre, però è anche un racconto di Natale perché si gioisce. La gioia più piena è proprio quella che si conquista attraverso il dolore per me. Edoardo, è un film molto al femminile. È un film dove la maggior parte dei personaggi sono donne, forse perché io sono stato allevato alle donne, quindi mi viene naturale scrivere e mettere in scena personaggi femminili. In realtà poi un uomo c'è. Ed è un uomo dotato dell'unica caratteristica che veramente a un certo punto sembra importare, cioè quello di essere umano. Parliamo un po' del personaggio ambiente. Ci sono i ruderi dell'abusivismo, c'è l'immondizia, ci sono un cielo e un mare plumbei, c'è un vulcano sullo sfondo e un'insegna luminosa che danno una precisa collocazione geografica. Anche se devo confessare che questa parte di terra bagnata dal fiume era una parte di terra che sta proprio dietro casa mia, ma neanche io conoscevo. È commovente scoprire un angolo di casa che ancora non si conosceva, che era ancora ignoto. Ed è un angolo che sembra desolato, abbandonato, ma invece lì c'è la vita che si insedia in maniera anarchica, inarrestabile, al di là delle condizioni difficili, al di là della condizione di assenza di legalità. È una vita dove vige più che la legalità, una forma antica, atavica di giustizia. Edoardo, com'era nato il progetto, l'idea iniziale? Durante uno dei miei sopralluoghi di sceneggiatura in cui incontro persone, visito luoghi, un amico del posto mi propose di risalire il fiume in barca. Lo facemmo di pomeriggio all'imbrunire e dei cefali di fiume cominciarono a saltare nella barca. Mi sembrò un segno prodigioso, io sono un poco melodrammatico, Ha ma io ero là. Alberga e scalpita dentro di me, o la sceneggiata che mi scorre nel sangue. Ho pensato che fosse un segno dall'alto, qualcosa di straordinario che si dovesse raccontare, ma che la sua misura straordinaria la dovessi ricercare proprio in quell'acqua, in quell'acqua del fiume alla quale ogni anno noi rinasciamo. A proposito di Mario Merola, anche la musica ha un peso importante. Sempre, sempre, le note di Enzo Vitale si intrecciano con le mie immagini, la sceneggiatura insegue la partitura e la partitura si sovrappone alla sceneggiatura. Il legame tra la sua musica e il mio cinema viscerale, da non poter più vedere la soluzione di continui da non poter più vedere il confine tra quello che si sente. Oh, a proposito del clima di favola che dicevi all'inizio, è ben palpabile nell'immagine che dai delle costruzioni, ma anche nei volti che hai scelto, ma anche nei costumi. Qualcosa che assomigli alla vita, anche con la sua parte misteriosa. misteriosa, una sua parte da decifrare. Mi piacciono i film dove ci si pone in continuazione delle domande. E quindi mi piace farli. Edoardo, che uscita sarà? Quante sale? Da oggi mi hanno detto 150 sale, ma sono sale di un circuito giusto. Noi non aspiriamo a numeri enormi, noi aspiriamo alla buona qualità dei numeri. Aspiriamo al fatto che ognuno che vede questo film è una persona che si può emozionare e che può diventare un soldato della speranza. Allora ricordiamo il film Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis, in uscita in sala il prossimo 22 novembre. Un saluto e un ringraziamento al regista. Edoardo, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Viva il lupo, un abbraccio a voi ragazzi. Ciao. Buone parole. Ciao.